il quando che ti do, grazie tanto per il poco che mi dai, grazie per il bene che mi aspetta, che tanto ma tanto per il quanto che ti do, grazie tanto per il poco che mi dai, grazie per il meno che mi aspetta, che tanto ma tanto per il quanto che ti do, grazie tanto per il poco che mi dai, grazie per il meno che mi aspetta, che tanto per il poco che mi dai, grazie per il poco che mi aspetta, che tanto ma tanto per il quanto che ti do, grazie tanto per il poco che mi dai, grazie per il meno che mi aspetta, che tanto ma tanto per il quanto che ti do, grazie tanto per il poco che mi dai, grazie per il meno che mi aspetta, che tanto ma tanto per il quanto che ti do, grazie tanto per il poco che mi dai, grazie per il meno che mi aspetta, che tanto ma tanto per il quanto che ti do, grazie tanto per il poco che mi dai, grazie per il meno che mi aspetta, che tanto ma tanto per il quanto che ti do. Grazie tante per essere qui in ascolto di Radio Città Fujiko per la 113esima puntata di Coxo Spaziale, che è ancora più sperimentale e spettacolare anche senza la sigla. E sono qui senza Pasquini, anche questa volta, senza neppure Pasquini al telefono, ma con Massimiliano Briarava, che è tornato a trovarci in questa occasione particolare. Ed è particolare tanto a partire dalla sigla. Che voci stavamo ascoltando, Max? Intanto buonasera a tutti, grazie tanto per il poco che mi dai. È un pezzo tratto da Il Pappagallo Verde del 1995, uno spettacolo di Arnaldo Picchi realizzato con gli studenti del laboratorio di istituzioni di regia del DAMS di Bologna. E se ci fosse Pasquini e se io avessi con me i jingle, o se fossi riuscita a scaricarli dal Dropbox, metterei il jingle di performance, ricerca e teatro. Però non solo, anche perché città, storia, Bologna, università, tante anime e ancora il presente, giusto? E ancora il presente, giusto, perché il brano che abbiamo ascoltato è Arnaldo Picchi, è noto regista, è noto docente del DAMS degli anni 80, 90 uno e 2000. Uno dei fondatori, fra l'altro. Uno dei suoi fondatori. Utilizzò questo brano per significare, per sottolineare la presa della Bastiglia, il momento della rivoluzione, l'inizio della rivoluzione, il caos in cui inizia la rivoluzione. E una piccola rivoluzione fu quella che Arnaldo Picchi portò nella cultura bolognese negli anni 70 come regista sperimentale con il Gruppo Libero, e poi negli anni 80, 90 e fino alla sua morte nel 2006 come docente universitario di regia e di iconografia teatrale. Io sono stato uno dei suoi assistenti e oggi mi trovo qua per presentare il glossario di regia teatrale, che è il manuale di regia che contiene il pensiero intellettuale, l'eredità intellettuale di Arnaldo Picchi come docente, come pedagogo e come regista. Ho rivoluto ascoltare il testo alla luce di questa illuminazione, questa svelatura. E quindi queste erano le voci degli studenti che partecipavano al laboratorio teatrale di quell'anno? No, questa non è una registrazione dello spettacolo, è il pezzo musicale che veniva trasmesso alla fine dello spettacolo. Come spesso accadeva nelle scelte musicali di Picchi, che credo che stasera avremo occasione di esplorare un po', perché secondo me sono un buon filo conduttore per parlare di lui, si trattava di scelte piuttosto anomale, sperimentali. Spesso lui si è servito, come in questo caso, di materiali estratti dai CD che fuoriuscivano da questo festival di musica sperimentale bolognese che si chiama Angelica, che suppongo che molti di voi conosciate. Sì, e quindi... questo è uno dei brani di una delle varie edizioni. Il Pappagallo Verde è del 1995, dunque deve essere appunto lo spettacolo dal testo di Arthur Schnitzler, e dunque in una delle Angeliche di quell'anno probabilmente c'era questo brano, che di cui però è uno dei pochi di cui non so altro, pur avendo io sviluppato insomma in questi anni come suo tutore dell'eredità di Picchi un po' di, insomma, di esperienza e di approfondimenti, questo testo, questo brano non saprei collocarlo più precisamente. E allora 333-180-94-94, se qualcuno di voi per caso sa dirci... Sarebbe molto interessante. Sì, sì, sì. Fra l'altro, sempre avendo avuto la fortuna di incrociarti qualche anno fa e di carpire qualche CD, ho anch'io dei brani di dubbia provenienza che però sono molto interessanti e qualche volta ispirano in situazioni di stallo. Beh, insomma, Fedra, se vogliamo dirla tutta, insomma, non è che la nostra frequentazione sia stata così... occasionale, anche tu eri un'allieva di Picchi. Io sono arrivata alla fine e sempre di più scopro quanto fossero profonde queste radici, quanto fosse gigante l'ospite che mi trasportava. Esatto. E va bene, finiamo un attimino questo brano per poi riprendere, certo, dall'inizio e certo. Direi dal titolo che ti porta qui. Chiaro. Grazie tanto per il poco che mi dai, grazie per il meno che mi aspetta, che tanto ma tanto per il quanto che ti do, grazie tanto per il poco che mi dai, grazie per il meno che mi aspetta, che tanto ma tanto per il quanto che ti do. Centotredicesima puntata di Coxo Spaziale, si parla di teatro, ricerca, città, università, incroci magici e ricercati, casuali e meno, e sono qui con Massimiliano Briarava, assistente per molti anni di Arnaldo Picchi, professore, regista, ricercatore, poeta, e l'occasione è quella della recente pubblicazione del testo Glossario di regia, sottotitolo 50 lemmi per un'educazione sentimentale al teatro. Max, da dove vogliamo cominciare? Ma a me piacerebbe molto cominciare è un po' un'autobiografia questa di Picchi, un po' si svela, no? Un'autobiografia glossario. Un'autobiografia in forma di glossario. Allora vorrei tra l'altro, scusami, sì, il collegamento. No, dimmi pure. Perché la formazione del nostro maestro era quella di chimico. Quindi forse il glossario, dividere in lemmi un'architettura di sapere sulla regia, potrebbe essere un corrispettivo. Mi sembra un'ottima intuizione la tua. Nella prefazione al testo, che io ho intitolato Teatro puro, ho voluto proprio sottolineare questa correlazione tra teatro e chimica. Teniamo conto che Picchi si laurea in chimica pura, non in chimica applicata. Filosofia. In una specie di filosofia della chimica, che però non preclude, anzi rende estremamente importante la pratica di laboratorio. Non a caso. E infatti ciò per cui Picchi diventerà famoso a Bologna, in Italia, come caso unico nel mondo universitario europeo, è proprio il fatto che abbia deciso di istituire un laboratorio pratico insieme ai suoi due insegnamenti teorici, regia e iconografia. Lui dava la possibilità agli studenti di praticare ogni sera dalle 7:30 fino alle 10 un laboratorio pratico che poi sfociava in una serie di spettacoli, per cui è esistito un tempo in cui il DAMS era un centro di produzione teatrale dal quale fuoriuscivano costantemente spettacoli sperimentali, e questa penso che sia appunto una un sistema di pensiero che rende giustizia al teatro in quanto tale, non semplicemente inteso come critica del teatro o storia del teatro. Mm-hmm. Sì, questi elementi ci sono, ma c'è anche, per poterlo capire, la necessità di assaporarlo. E, fra l'altro, dal punto di vista pedagogico o comunque anche della ricerca, poter mettere le mani e verificare sulla scena quello che dalla pagina ti ha trasmesso, certo. E, insomma, era quello... un valore aggiunto che ha permesso anche, probabilmente, insomma, era tutta quella congerie di opportunità che hanno fatto di Bologna quello che stiamo è un po' infatti, un centro culturale. Esatto. Stiamo infatti parlando di una Bologna in cui i centri sociali aprivano, non chiudevano, mm-hmm. o venivano sgomberati. Stiamo parlando appunto di una Bologna in cui ancora si... una Bologna ricca, di un'università ricca e non... di un'università riformata e che tira la cinghia. Io sono arrivato a Bologna per quello che prima parlavo dell'autobiografia di Picchi, perché in fondo si interseca anche con la mia. Io sarei partito a parlarti del glossario parlando del modo in cui io ho conosciuto Picchi quando ho arrivato nel 95 qui a Bologna, in una Bologna estremamente vivace, tenuto conto che comunque arrivavo da un piccolo paesino. Picchi era un suono che era una voce, un nome che risuonava come risuona Barba Blu, come risuona Dracula. Era un mostro. Tutti temevano Picchi perché era quello che lanciava i libretti fuori dalla finestra, era quello che sbraitava contro gli studenti o che li fulminava con uno sguardo, per cui insomma la curiosità nei confronti del mostro era altissima. Perché tu ti sei iscritto proprio al DAMS spettacolo. Mi sono iscritto al DAMS spettacolo e poi la prima volta che mi presentai di fronte al professor, al temutissimo professor Picchi, mi presentai con questa tesina di iconografia alquanto bizzarra e alquanto bislacca. Su cosa? Su me stesso. Adesso non entro nel... ma potrei anche un po' entrare nel merito, perché in realtà io facevo una tesina di laurea sulla mia collaborazione con un gruppo musicale, con una band che si chiama Scisma e che forse qualcuno degli ascoltatori conoscerà, perché... L'ho sentita nominare anch'io. Perché negli anni 90, alla fine degli anni 90, hanno pubblicato due album molto belli e si sono appena, dopo 15 anni, dopo essersi sciolti nel 2000, si sono appena riuniti, e colgo l'occasione insomma per fare un piccolo spot pubblicitario, perché gli Scisma sono tornati. Ma c'è un brano che lo mandiamo su? Non so se lo puoi trovare da qualche parte, un brano c'è, certo. Se vuoi, se lo trovi, dopo magari durante una pausa pubblicitaria gli dai un'occhiata. Gli diamo un'occhiata. E dunque io scrissi questa tesina sugli Scisma e su me stesso, dunque, e lui mi guardò e mi disse: lei è completamente pazzo. E ti lanciò tutto insieme fuori dalla finestra. No, lei mi disse: lei è completamente pazzo, dunque mi parli un po' di questa sua pazzia. E infatti io gli parlai e poi presi un 30 e lode, e da allora la nostra amicizia fu solidissima. E dunque camminammo insieme come professore studente, poi come docente assistente per molti molti anni, fino ad avere questo onore di diventare il suo erede, ecco, anche con il dolore di dover... Temutissimo anche Max in sede di laboratorio. Ero un po'... Corteggiatissimo. Ero un po' anche io ingenuo al tempo. Va bene, allora, adesso che abbiamo un po' anche l'origine sentimentale, che è una parola che c'entra anche nel titolo del libro di cui avremo tra poco l'onore di entrare nel merito, sì. E intanto che prepariamo il primo lemma attraverso cui addentrarci un pochino in questo viaggio. E, che brano mettiamo? Ma potremmo mettere qualche cosa di un po' perturbante. Dall'Anfitrione, spettacolo fatto nel 1999, questa commistione, molti dei brani che potremo ascoltare saranno... dei mix tra sonorità diverse e tra diversi brani, insomma è come una drammaturgia musicale in cui diversi brani si incontrano. In questo caso ci sarà per l'anfitrione di Heinrich von Kleist Picchi scelse per una delle scene in cui c'è l'apparizione di Giove, dunque l'apparizione del divino di fronte all'uomo, dunque un momento di sgomento, di connettere i Funeral Sentences di Henri Purcell e un brano molto atmosferico di Peter Gabriel tratto dall'Ultima Tentazione di Cristo di Martin Scorsese. Ce l'ho, sai? Forse riesco anche a farlo partire. Ma speriamo. È lui? La 113esima puntata di Coxo Spaziale è interamente dedicata al teatro, alla ricerca attraverso un testo che raccoglie parte, possiamo dire parte perché tutto è impossibile, immagino, dell'esperienza fatta sulla pratica da Arnaldo Picchi, regista e professore, e a parlarne è Massimiliano Briarava Sì, sì, poi lo spieghiamo anche questa storia. In un'altra puntata faremo la mia autobiografia del perché ho due cognomi. Ma lo sai che prima pensavo di fare una puntata dedicata alle autobiografie e agli autoritratti? Prima, mentre raccontavi del come hai conosciuto il nostro maestro. Sì. E il testo di cui stiamo parlando si intitola Glossario di regia, 50 lemmi per un'educazione sentimentale al teatro. Io da questo titolo vorrei tirar fuori dei contenuti, quindi perché glossario è il primo spunto, il secondo educazione sentimentale. Beh, educazione sentimentale, sì. Come si può fare un'educazione non sentimentale al teatro? Il teatro è un fatto sentimentale, se non lo è non saprei dire che cosa potrebbe essere. Se non ci si è affezionati sentimentalmente, cosa lo si fa a fare? Ecco, con una domanda del genere Picchi mi avrebbe buttato fuori dalla infatti c'è Max che mi sta fulminando con lo sguardo del cielo in tempesta. Vabbè, ci eravamo messi d'accordo, Max, dai, certo, te lo devo chiedere. Sì, va bene, comunque mi sembra interessante cercare di comprendere per quale motivo Picchi un bel giorno del 2004 mi disse: sto pensando di fare di mettere insieme tutti gli appunti delle lezioni e degli allestimenti e di tirarci su un glossario. E ogni tanto lui mi riforniva di queste specie di lemmi, di voci provvisorie, voce improvvisazione, voce verso, voce attore. Mi dava queste bozze di scrittura. Io tra me e me mi domandavo come mai un glossario. Ci ho messo tanti anni, poi dopo lui appunto è scomparso e io mi sono ritrovato con questa bozza di glossario composto da 20 voci che poi attraverso la curatela e lo spulciare di tutti i suoi materiali sono diventate 50, nel senso che ho sviluppato molto il suo progetto, la sua intuizione. E ho capito anche per quale motivo l'idea di un glossario, un motivo che non è tanto dissimile da quello che tu avevi supposto prima, cioè una libertà assoluta di movimento all'interno della lettura, una libertà di muoversi sulla propria necessità di scoprire, di sapere, e non una obbligatoria conseguenzialità dei temi e degli argomenti. Uno si sposta all'interno del glossario come vuole, è come una grande chiacchierata, non vuole essere impositivo in alcun modo, e per cui il fatto che sia diviso in 50 piccoli capitoli su 50 voci importanti per il teatro, ma non solo per il teatro, perché ci sono voci come libertà, ci sono voci come dolore, penso che sia un sinonimo del modo in cui Picchi ha sempre inteso il suo modo di lavorare, cioè lasciando estrema libertà di poesia, poetica, di movimento a tutti i suoi collaboratori. E così credo che l'idea del glossario sia confermi questo atteggiamento etico. Ma nell'ascoltarti mi viene in mente una parola, chissà se c'è la parola grimaldello all'interno del glossario, non penso. Perché? Era una cosa che mi aveva molto, molto colpito nel frequentare il corso, il fatto che il professore suggerisse di usare un altro testo come grimaldello per entrare più addentro il testo di prima mano sulla quale si stava facendo ricerca. Certo, in questo caso c'è una voce specifica che si chiama intarsio. Aha. E lui lo chiamava intarsio in termini tecnici, ovvero sia l'utilizzo di un testo segreto, di un testo sotterraneo, che è stato dato anche a te al tuo tempo quando interpretasti la duchessa nel Riccardo II di Shakespeare, mi ricordo, e ti venne dato in quel caso, e questo è importante da dire, un testo che, sebbene anonimo, perché ti venne dato come anonimo, era una delle poesie di Picchi, era una poesia di Picchi. Conseguentemente stiamo parlando sì di un regista e di un docente, ma anche di un poeta e di un romanziere. Infatti nel mio progetto, scusate se mi sono permesso, nel progetto Archivio Picchi, che raccoglie tutti gli inediti di Picchi, c'è anche un quinto volume dedicato alle sue prose e alle sue poesie, per cui stiamo parlando effettivamente di un uomo che ne aveva di argomenti, ecco. Prima dell'interruzione di metà puntata vogliamo approfondire un pochino il tessuto in cui questo testo, la pubblicazione di questo testo viene a collocarsi, quindi magari la rete di istituzioni, piuttosto che adesso hai nominato anche l'archivio Picchi, L'Archivio Picchi è un progetto realizzato dall'Associazione Culturale H. Bluma Verde, che riunisce diversi ex studenti di Picchi, che è stato proposto a diverse fondazioni, a diversi enti che avrebbero potuto dare contributi e fornire aiuto, aiuto economico per poterlo realizzare. Oggi come oggi il glossario si colloca come del resto afferma anche Marco De Marinis, che è il postfattore, cioè scrive un articolo a postfazione successivamente, insomma in fondo al testo. È un testo che si colloca, si posiziona in uno spazio lasciato effettivamente vuoto, che è quello degli studi teorici sulla regia, di una teorizzazione possibile per la regia, che è un argomento, la regia, va detto, è un argomento abbastanza fluttuante. Cos'è la regia? Ecco, questo sarebbe un argomento da affrontare, non so se abbiamo il tempo per affrontarlo, però che cos'è questa regia? Cioè, cosa fa il regista? Io faccio il regista, ma a volte me lo domando anche io, ma cosa fa esattamente il regista? Lo psicanalista molto spesso. In certo teatro anche sì, volendo. Ma è un lavoro. È un lavoro, sì, ma che lavoro è? Perché si suol dire che, cioè, spesso mia madre o persone che, insomma, io uso mia madre come cartina al tornasole per le cose che, come dire, per la casalinga di Voghera, insomma, capire che cosa la gente comune capisce di quello che io dico. E se mia madre mi dice che non sa che cosa faccia esattamente il regista, o magari perché mi vuole bene decide di tacere questa domanda, però altri me la fanno, io effettivamente vado un po' in crisi, perché il ruolo del regista è effettivamente, rispetto alle altre tecniche teatrali che sono il musicista di scena, lo scenografo, il costumista, l'attore, hanno una specificità molto evidente. Esatto, queste mansioni sono chiare ed evidenti. Il ruolo del regista, che è il ruolo di coordinatore di tutti questi diversi linguaggi che insieme se no farebbero a pugni, e dunque è quello che non li coordina semplicemente ma li attiva, fa in modo che si mettano in contatto, è colui che crea i rapporti tra tutta questa squadra, è un ruolo che non è chiaramente definibile, non è chiaramente un ambito disciplinare che prevede una manualistica, delle regole fisse e stabili. E questa è anche un po' la sfida del glossario, di riuscire a parlare di regia senza dettare delle regole per cui questa cosa è giusta e questa cosa non è giusta. Bisogna semplicemente discutere. La fascinazione estrema che il regista osserva e di cui non solo è testimone ma è anche fautore, è il fatto che il teatro è l'unica e sola arte in cui gli autori sono tantissimi. Gli autori sono tutti coloro i quali collaborano. Non è l'autore, non è il drammaturgo, l'autore non è il regista, l'autore non è l'attore, non è lo scenografo, non è il costumista, sono tutti insieme. Dunque la firma che viene messa sotto questa opera, che viene vista in un istante e poi scompare un istante dopo, è una firma che conta, una firma lunghissima, sono tantissimi nomi insieme. A sentirti parlare così mi fai far pace con il mestiere del regista, perché io lo sai che ce l'ho un po' su, con l'autorialità di stampo novecentesco, ma questo appunto, è un altro modo di vederlo. Ma Picchi scrive esattamente una introduzione, l'introduzione al volume, al glossario, è proprio, si intitola esattamente Regia, il lascito dei padri, cioè dei grandi registi, e qualche ipotesi di dilapidazione, cioè questa eredità la dobbiamo buttar via. Ma Enzo Re Singulti? Vuoi quella? È un po' angosciante. Beh, diciamo no, che... No, ci no, può no. stare, perché ha la durata giusta e poi l'angoscia... Va bene, ok. Thank you. Più di 180 films tra le più richieste. Bellissima. Simone Brick, in via Frassinago 2C, telefono 051 580950. E tutta la settimana sono aperti anche per pranzo. Allora faccio così: stasera la porto al Red Brick e domattina pure. Bello. Bentornati alla 113esima puntata di Coxo Spaziale, qui in diretta da Radio Città Fujiko, come ogni giovedì, in compagnia di Fedra e di Max Massimiliano Briarava, per una puntata super speciale e dedicata ad Arnaldo Picchi, regista, professore, maestro, in occasione della pubblicazione di un testo, un glossario. Leggo direttamente dal glossario. E a proposito delle musiche di scena, e ora ne stavamo appunto ascoltando una, di cui dopo vi parlerò, ma intanto vi leggo questo brano. La musica in scena è la passionalità slegata, lasciata andare, come un incosciente nel traffico delle autostrade. È l'intersecarsi degli spazi diversi e compresenti che sono propri a ciascun personaggio. La musica in scena costituisce, mostra, le vene geometriche e simmetriche della passione dei personaggi e degli attori, si pone all'incrocio di tutte le vie, viltà e fermezze. Potrei pertanto dire che ciò che anzitutto deve essere ricordato di un allestimento è la consapevolezza di uno spazio trattato a incastrare le passioni dei personaggi e degli attori una dentro l'altra, come una sequenza di accordi, sviluppi, musica in grado di dirci quanto e come l'attore si sia trovato davanti al suo personaggio e in che modo abbia preparato il suo personale incontro, la sua reale speranza di incontrarlo. E questo brano? E questo brano era il luogo di incontro di diverse relazioni di questo genere. E questo brano arriva da Riccardo II, dalla versione, dall'adattamento che Picchi fece da Riccardo II di Shakespeare, chiamandola Ric II Felix. Felix è un termine che viene utilizzato per gli antichi imperatori per indicarne l'immortalità, la grandiosità. E questo brano, che mescola delle sonorità noise con il famosissimo primo movimento del concerto di Colonia di Keith Jarrett, intendeva raccontare, era come un modo musicale di raccontare l'intera storia, così lo intendeva Picchi, è come il brano portante che porta in sé dentro la filosofia di questo testo teatrale e di questo allestimento, e narra e viene utilizzato in scena nel momento della depauperazione, nel momento in cui Riccardo viene privato del suo trono e viene imprigionato per poi essere ucciso. Narra dunque di un momento fortissimo dentro la cattedrale di Westminster in cui il re perde se stesso, perde completamente la sua ragione di vivere. Che anno era? 2005. E tu eri in scena? E io ero Riccardo II e tu eri la duchessa cattiva. Io ero il buono e tu eri la cattiva. La scosciata duchessa cattiva. Esatto, e mostrava le gambe la nostra Federa, mostrava le gambe in questo spettacolo. Ma era la prima volta che finivo, no, la prima volta fu durante l'estate, che è sempre Renzo Re. A proposito, sì, Enzo Re, Rienzo, è un tema che torna molto spesso nella teatrologia di Picchi, perché suo grande amico fu Roberto Roversi, grande poeta bolognese, paroliere di Dalla, e Roversi scrisse questo testo, Enzo Re, che dopo un testo enorme, grandioso, un colossal, un Ben-Hur della storia di Bologna, che soltanto Picchi, dopo tantissimi tentativi anche di grandi registi, soltanto Picchi riuscì a mettere in scena nel 1998 con più di 100 attori, 200 tecnici, con un budget spaventoso, nel 98 come evento inaugurale delle celebrazioni per Bologna 2000, capitale della cultura. E da questo. Ed è stato allestito in Piazza Santo Stefano. Esatto, venne allestito in Piazza Santo Stefano. Con delle proiezioni sui palazzi. Esatto. Ricordo. Fu uno dei primi, forse non uno dei primi, però diciamo che si era nel pieno della sperimentazione del videomapping sulle facciate degli edifici. Per cui fu un esperimento molto ardito, molto sperimentale per il tempo. E un enorme momento, insomma, di notorietà per il laboratorio di Picchi. Teniamo conto che appunto di queste centinaia di persone in scena la stragrande maggioranza erano studenti universitari, per cui stiamo parlando di un'università che coinvolgeva gli studenti in grandi produzioni, in grandi eventi. Sì, ricordo che quelle volte che sono stata coinvolta anch'io ho ricevuto persino cioè sono stata iscritta all'Elpals, è stato lì la... Sì, se vai in scena devi essere assicurata e devi sì, diciamo che le cose vengono fatte molto seriamente. E fra l'altro l'occasione di vivere, di osservare da dentro questa macchina grandiosa, no? Con tutta la paura che ciò comporta, ma sì, è una necessità. È una necessità, ecco perché si chiama educazione sentimentale, no? Ci eravamo messi d'accordo per bravissimo questa domanda. Bravissimo che sei arrivato finalmente ad aggrapparti. Dai, riusciamo a snocciolare il perché di questo sentimento, di questa sentimentalità, prima di, non so, anticipare 2 o 3 Emmy, ma mi sa che non ce la facciamo, sai? Ma sì, ne ho già letto un pezzo. Tornerai. Ne ho già letto un pezzo che secondo me rende un po' il sapore di quello che si può trovare all'interno di questo testo, che come si è potuto capire è molto coinvolgente dal punto di vista emotivo. Dunque si chiama Educazione sentimentale al teatro, 50 lemmi per un'educazione sentimentale al teatro è il sottotitolo, perché Picchi ci metteva sempre tutto se stesso e era solito dire questo ai suoi studenti: se non lo fai perché ne va della tua vita, non farlo. Questa me la ricordo. Ne deve andare della tua vita, ne deve andare della tua dignità, ne deve andare del tuo valore più profondo. Ecco perché si parla di educazione sentimentale. Come può essere, se non sentimentale, un'educazione al teatro, che è la palestra dei sentimenti? E come Umberto Eco disse che senza la letteratura noi non saremmo allenati a provare i sentimenti, non li proveremmo. L'arte serve per renderci consapevoli del valore dei sentimenti. Il teatro credo che ne sia una magnificazione. E in questo senso, cioè in questo modo in cui Picchi viveva sulla propria carne la passione teatrale, ovviamente lui fa parte di una squadra piuttosto nutrita, perché prima di lui Antonin Artaud nel teatro, prima di lui Pasolini nella letteratura, nella poesia, nel cinema, prima di lui Abi Warburg nella storia dell'arte, oppure Francesco Arcangeli, un famoso critico bolognese di cui anche Picchi trattò. Sono molti gli intellettuali del Novecento che hanno sentito la necessità di vivere sulla propria pelle, che non hanno, o meglio, non la necessità, che non vedevano un'alternativa. Ecco, Picchi era così. Diceva tra sé: se avessi potuto scegliere di fare qualcos'altro l'avrei fatto, purtroppo non è una scelta possibile. Buorman è, dopo aver raccontato di questo Jarrett, Buorman è questo pezzo musicale straordinario che accompagnava l'ultima dichiarazione di Robespierre un attimo prima di salire alla ghigliottina, nello spettacolo del 2002 dedicato appunto alla Rivoluzione Francese. Abbiamo cominciato con la Rivoluzione Francese e ci ritroviamo qua di nuovo, perché spesso Picchi l'ha trattato come argomento, perché ovviamente si tratta un po' del nocciolo da cui parte la vita che oggi noi viviamo, il sistema democratico che oggi viviamo. Le ultime parole di Robespierre, questa è la loro versione musicale. Buor manchi degli Ormander, buor manchi degli Ormander, che è dormoce, de me cacci tenisi in decia del dormoce. Malum mi cinghiali, malum derdi del unumos die, ed al dan her köye bir şahin uçurmuşuz. Her şahin peşine 100 aslan takıp gelmiş. Köylü bey ekinini çırak çarşıyı yakıp reaya zinciri bırakıp gelmiş. Bir kızılca kıyamet karışmış birbirine. At insan mızrak demir yaprak deri. Yürgenlerin dalları, meşelerin kökleri. Never let me lie down, you're still under. Never be rude to do you still work. Tell your man, tell him, all I will be. La 113esima puntata di Coxo Spaziale è interamente dedicata ad Arnaldo Picchi, alle sue produzioni, alle pubblicazioni, ai suoi lemmi, nella forma del glossario di regia che Massimiliano Briarava è venuto a raccontarci, e in particolare in questo momento a raccontare anche al grande desaparecido del Coxo. Pasquini, dove sei? Sì. Dove sei? Dove sono? Non lo so, qua non ci sei. Sei sempre al telefono. Sono al telefono, sono sempre. Lontanissimo. Va bene, Pasquini. Allora io ti ripresento Max Briarava, che tu hai già incontrato, oppure è venuto sempre quando tu non c'eri? Ma penso che, non lo so, lui mi ha conosciuto. Vi siete conosciuti? Ho capito, io mi devo ricordare di lui, ma lui non si deve ricordare di me. Con tutti gli ospiti, tutte le persone che il mitico W. Pasquini incontra giornalmente. Comunque mi sembra di no, e penso che anche lui non si ricordi di me. Invece mi ricordo benissimo, eri qua a prenderci in giro. Ah, è vero, perché sei venuto con la Mavi. Esatto. Tu parlavi del coro. Io parlavo, non parlavo del coro, ma parlavo del crowdfunding, credo, Sakura. Se non erro, esatto, di Sakura. Comunque, insomma, giusto, allora, ti perdono. No, perdonami, è che sei venuto da una gran gnocca e io guardavo lei, è normale. Vabbè, non avevo gnocche. Infatti abbiamo ricevuto un unico sms che non ci ha detto il titolo dell'autore o il titolo del brano in questione. Bensì ci ha chiesto, ma c'è della gnocca? Indovina chi l'ha mandato? Lui. Ecco. Senti Max, Pasquini, insomma, e se invitassi Max a fare il co-conduttore per un mese intanto che ti aspettiamo? Ma questa è un'anticipazione, ho sbagliato tutto, quella era una roba del 114esimo. Ma sai che noia, io che parlo sempre, ma lascia stare. Però c'è una bella voce. Ah, okay. E poi telefoniamo a Pasquini. No, certo. La cosa positiva del fatto che tu mi devi aspettare è proprio questo, che tutti hanno una voce più bella della mia, per cui non tutti. Stai sminuendo le mie nuance vocali. No, ho sentito, che ne so, ragazzi, ragazzi, l'altro giorno avevo una voce meravigliosamente suadente. Il tempo. Così come il biondo era meraviglioso in radio, no? Speriamo che torni anche lui, ma non può. Comunque, senti. Io dico, prenditeli tutti, cosa ti devo dire? Ma io voglio anche delle donne. Ma insomma, comunque ne parliamo alla 114esima puntata di Coxo Spaziale, quando anche tu finalmente ritornerai in studio da noi. E intanto però il tempo è diventato pochissimo, la puntata si è esaurita subito, non me ne sono neanche accorta, e quindi dobbiamo parlare di un po' del spiegare a Pasquini un lemma, poi salutare Pasquini e ringraziare chi gli sponsor. Allora, che lemma spieghiamo al W. Pasquini? Ma me l'hai suggerito tu. E a me piace punti di stranezza. Punti di stranezza, gli spieghiamo. Perché stiamo parlando di questo glossario di regia, ovvero 50 lemmi per un'educazione sentimentale al teatro di Arnaldo Picchi, che Max ha curato. E ci sono tanti lemmi, fra i quali io sono incuriosita da punti di stranezza. Esatto, insomma, in fondo non abbiamo, tutti noi non abbiamo un punto di stranezza. Tu quale hai, Pask? Io? Non lo so, no, io sono una delle persone più normali che conosco. Ok. Però la questione è questa, che generalmente se qualcuno si innamora di noi è per un punto di stranezza che riconosce in noi, che magari gli altri non vedono, ma che lui vede o che lei vede, giusto? Cioè, è come dire, il punto di stranezza, vi sto già raccontando quello che in qualche modo Picchi ci dice, il punto di stranezza è l'aggancio segreto che ci rende possibile connetterci a qualcun altro o a qualcos'altro. Per cui noi abbiamo, adesso vi spiego un po' più in termini teatrali e tecnici, noi abbiamo di fronte un testo, abbiamo di fronte un'immagine, abbiamo di fronte un materiale su cui, dal quale dobbiamo estrarre una drammaturgia e una messa in scena, un allestimento, e non sappiamo da che parte cominciare. Ebbene, prendendo un po' spunto dalla proposta di Roland Barthes, che nella Camera Chiara, il suo ultimo saggio, parla del punctum come dell'elemento incongruente all'interno della fotografia che attira la nostra attenzione, che ci punge l'occhio, e Picchi dice: ecco, forse è da lì che la nostra analisi può cominciare, da quell'elemento affettivo e non dunque concettuale e non dunque intellettuale, ma puramente affettivo, che noi riconosciamo nel materiale con cui abbiamo a che fare. Questo vale anche per le relazioni umane. Hai visto, Pasch? C'è anche la fotografia della nostra personalità. Esattamente, bello. Il punto di stranezza è il punto G. Beh, hai visto come si nella scena teatrale di ricerca, come si commistano i vari linguaggi, le arti, beh, insomma, mi taccio perché è finita la puntata, ragazzi. Già. È finita la puntata. Ma abbiamo altri 49 lemmi di cui parlare. Vorrà dire che tornerai. Altre 49 volte. Senti, Pasch, allora noi ci vediamo la settimana prossima. Ti saluto così proprio brutalmente perché Max deve fare i ringraziamenti. Ma ti è piaciuto il lemma? Mi è piaciuto moltissimo. Oh, vedo l'ora di sentire gli altri 49. Vengo a casa tua a raccontarteli. Ti aspetto. No, vieni al coxo. Ah no, che è a casa tua il coxo. Appunto. A punctum. Punctum. Ciao W, bacio. A giovedì prossimo. Ciao. E riaggancia che ci piace il tutù. Ah, perfetto, aggancio io. Vai. Chiudo io. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Molto sexy il tutù. Dai, racconta, ringrazia e salutiamo. Molto sexy la Fedra in tutù. Va bene. Giustamente va sottolineato che il glossario di regia è stato realizzato grazie a dei contributi. È pubblicato dalla casa Usher, che è una casa editrice importante, estremamente importante nell'ambito della saggistica teatrale, con una storia trentennale di produzione di saggi teatrali. Ed è stato realizzato grazie ai contributi della Fondazione Carisbo, della Fondazione Del Monte e dell'Università di Bologna. E ci siamo? Direi che ci siamo. Beh, allora io... Vuoi che finiamo? Finiamo in grande con questo Bach insieme a Saluzzi, questo bellissimo pezzo musicale estratto dallo spettacolo Wake, con il quale una piccola squadra di studenti insieme a Picchi ce ne andammo fino a Gerusalemme a portare questo spettacolo straordinario. Che ne pensi? Finiamo così? Che ti saluto. Che mi saluti? Allora ciao. Ciao.